Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Mediterraneo. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. Ora delle decisioni irrevocabili. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! È il 10 giugno 1940. Benito Mussolini dal balcone di Piazza Venezia a Roma dichiara guerra a Francia e Inghilterra. Si schiera a fianco della Germania nella seconda guerra mondiale. In realtà la guerra è iniziata da un anno, l'Italia era rimasta alla finestra a guardare gli altri combattere, forse era ancora impreparata. Poi a un certo punto Mussolini ritiene sia arrivato il momento di scendere in campo, chiama alle armi tutti i soldati possibili, l'Italia compatta è con lui, almeno in quel momento, dopo cambierà idea e l'obiettivo del Duce è chiaramente dimostrare a Hitler che anche l'Italia c'è, può dire la sua, e questa insomma sarà la decisione che porterà poi alla tragedia. E il protagonista della nostra puntata di oggi si trova all'interno di quella tragedia come tutti quelli che avevano i suoi anni in quegli anni. Dopo le missioni in Spagna, in Nord Africa, il nostro protagonista imbraccia di nuovo le armi, è il sergente Nicola Lo Russo, che sta per ripartire ancora una volta. Con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia. Eh sì, questo era il carico ulteriore alla Francia, all'Inghilterra, alle democrazie plutocratiche dell'Occidente, come diceva lui, si aggiunge la Grecia. La guerra ormai si è allargata a macchia d'olio e il nostro protagonista, Lo Russo, un sergente che si è guadagnato i gradi sul campo, è pronto alla sua ultima missione, quella in Grecia. Ha un grande sogno, tornare in Italia e ricostruire il paese. Viene inviato a Megisti. Megisti è una piccola isola dell'Egeo. La sua missione è quella di osservazione e collegamento, si dice tecnicamente. Lo scopo è quello di scrutare il mare, segnalare via radio la presenza di nemici all'orizzonte. Insomma, un lavoro piuttosto semplice anche per un gruppo come il suo, che è più che un gruppo, è un po' un'armata brancaleone. A parte Lo Russo ci sono soldati reduci da reggimenti sfasciati, sopravvissuti a battaglie perse, e questi ragazzi sbarcano sull'isola e capiscono subito l'aria che tira. Siamo nel giugno del 41, la guerra è al suo apice in Europa, cadono le bombe sulle grandi città, a Megisti regna il silenzio come in un grande cimitero abbandonato. Signor tenente, cosa c'è scritto là? E Ellas Einei Otafos, la Grecia è la tomba Tony Talon. Scusi, Tony Talon cosa vuol dire? Ragazzi, allora, ora tutti uniti, avanziamo piano piano verso il paese. Occhi aperti, mi raccomando. Strazza chiude la fila, con la Santi nel mezzo perché non voglio che succeda qualcosa alla radio. Appena arrivati sopra, troviamo un posto per fare la base. Tutto chiaro? Sì, tutto è chiaro, ma Tony Talon cosa vuol dire? Degli italiani. Cioè, come viene? La Grecia è la tomba degli italiani. E Lo Russo vuole essere un eroe anche per i suoi commilitoni, ha bisogno di essere autorevole e non solo autoritario, a volte dà l'impressione di prendersi un po' troppo sul serio. Dalla sua parte c'è l'esperienza accumulata in Spagna, in Nord Africa, quindi tratta gli altri soldati con una specie di strafottenza, un senso di superiorità che in realtà gli serve a mascherare la preoccupazione, come quella che gli monta quando sente la frase "la Grecia è la tomba degli italiani". Ahimè, sarà così per molti. La preoccupazione è amplificata dal fatto che sull'isola sembra non esserci anima viva, solo questo silenzio irreale e il rumore delle onde, insomma una situazione che non lo convince per niente. Estate 41, come era ampiamente prevedibile, Roosevelt porta gli Stati Uniti in guerra al fianco di Churchill, la carta atlantica, e nel mondo insomma le cose cambiano velocemente e la situazione per quanto riguarda l'Italia sta per precipitare. E tutto questo però per lo russo è qualcosa di estremamente lontano dalla realtà. Lui è su quell'isola greca con dei pericoli diversi, pericoli terra terra direi, anche se sono sull'isola, pericoli che fanno affiorare tutti i limiti degli uomini che assieme a lui dovrebbero portare a casa la missione. Non mi avete visto, sono Farina, sono Farina, mi avete quasi ammazzato, scusa. Vabbè, abbiamo sentito un coso, sentito Farina. Sparare, Farina. Abbiamo sparato. Ma che cazzo succede? Chi ha sparato? Ma come è stato Farina? Abbiamo sentito un coso, abbiamo sparato. Ma dovevamo fare? Ho sparato per primo, io pensavo che fosse un cecchino. Un attimo, signor tenente, io ho seguito una cosa. Farina è stato aggredito da un pollo e ha reagito giustamente, secondo me. La truppa presa, cioè il fattore sorpresa ha giocato un ruolo... siamo stati aggrediti dei polli greci. Ragazzi, non facciamo cazzate, non stiamo scherzando. Potevate ammazzarlo. Vabbè, non era una grande perdita, voglio dire, Farina. Dai, su, non giocare. No, sto scherzando, signor tenente, voglio dire, è andata bene, no? Meglio un pollo morto che un soldato. Era giusto per tenere su un minimo il morale della truppa. Siete proprio dei deficienti. Quattro invece. I soldati italiani hanno il fucile in braccio, l'elmetto in testa, stanno perlustrando l'isola da cima a fondo come se si aspettassero da un momento all'altro l'attacco del nemico. In realtà lungo il cammino non incontrano anima viva. Il russo però vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini, anche se non ci sono abitanti, non ci sono barche, c'è questo silenzio irreale che regna, e tutte queste cose forse gli riportano alla memoria anche vecchie esperienze passate che vuole condividere con la sua truppa, che è sicuramente è ancora più ingenua e più impreparata di lui. Questa volta mi puzza proprio. Mi ricordo una situazione analoga che mi è capitata in Africa. Perché, cosa era successo? Niente, mi è uscita una pattuglia in perlustrazione, no? E mi trova un villaggio deserto e mi si ferma a dormire nelle capanne. E allora? Alla mattina abbiamo trovato solo le ossa, ecco. Di chi? Di chi? Della pattuglia. Mangiati. Tutti. Selvaggi. Ma che bischerate racconti, lo russo? Bischierate, signor tenente, bischierate. Devo esserci. Vabbè, ma qui mica siamo in Africa, no? I cannibali non dovrebbero esserci. Cosa ne sai tu? Cosa sai tu di cosa mangiano i greci? Il sergente ha un modo di fare tutto suo. Da un lato vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi uomini, allora li stuzzica, li tiene sempre sull'attenti anche quando sembra che tutto sia tranquillo. D'altro canto vuole anche sdrammatizzare, cioè non vuole che si facciano deprimere i suoi uomini, punzecchia la loro ingenuità, ha una sua ironia un po' strafottente. In realtà il posto dove sono stati spediti sembra tutto tranne che un campo di battaglia. Lui però non vuole che i suoi si facciano distrarre neanche dalla bellezza di una notte di stelle cadenti. Libero, guarda. Ostia, esprimi un desiderio. Speriamo che torniamo tutti a casa. Eh già, speriamo. Chi vive sperando muore cagando. Lo russo, isoletto dell'Egeo che non conta un cazzo, 1941. sono anche un autore. Buonanotte. La missione di osservazione, di collegamento sull'isola di Megisti prosegue, e però l'unico che sembra credere veramente in quello che loro stanno facendo è lui, è il sergente Lorusso. Lui ha un sogno: tornare in Italia da vincitore per far rinascere il paese. Lui si trova a avere a che fare però con dei compagni di avventura che non si rivelano all'altezza della situazione. Comincia a intuire che forse i sogni di gloria sono solo i suoi, e per gli altri quella missione non ha nessun valore. Insomma, Lorusso è un uomo solo al comando. Alto là, chi va là? Sono io, Lorusso. Parola d'ordine. Sono io, ho detto. Farsi riconoscere, parola d'ordine. Io ho detto che sono io, Lorusso. Parola d'ordine, spariamo. Oh, va bene. Savoia o morte? Va bene, sergente. Lei può avanzare. Va bene un cazzo. Contro parola d'ordine. Memento audere semper. No, sbagliato. Come sbagliato? Folgore! No! No, quella sei di ieri. Pizza margherita! Sì, quattro stagioni adesso. È regina margherita! Oh, sì, regina, regina. Va bene, noi dovremo spezzare le reni alla Grecia con questi quattro deficienti qua. Voi domani siete tutti consegnati, è chiaro? Dopo solo 24 ore dall'arrivo dei soldati, la missione va già in fumo. Prima viene uccisa per errore Silvana, che è l'asina di Strazzabosco, viene scambiata per un nemico. Strazzabosco è talmente disperato che prende la prima cosa che gli capita tra le mani, la radio di campo, e la scaglia a terra distruggendola. La perdita del suo animale l'ha fatto uscire di senno. Bene, Colasanti, il marconista della missione, capisce che tutto ormai è perduto, perché prova a sistemare la radio, ma non c'è più nulla da fare. È proprio rotta. Non lo so, non lo so. Vabbè, si potrà aggiustare. Non lo so. Ma come non lo so? Come non lo so? Ho detto non lo so. Ma come? Era la cosa che ci interessava di più, la cosa che dovevamo tenere in perfetta efficienza. Eravamo legati a questa radio e ce l'ha spagato quel deficiente del Montanaro. Sì, sergente, non gridi. Cosa c'entra prendersela con lui adesso? L'importante è piuttosto mantenere la calma. Ma mantenere la calma un cazzo, scusa. Ma no, non stiamo calmi. Siamo tagliati fuori dal conflitto bellico. Come comunichiamo con l'esterno? Con i segnali di fumo? E così, con la radio fuori uso, la missione di osservazione e collegamento cambia radicalmente. I soldati rimangono isolati, non possono ricevere informazioni dall'esterno, la loro presenza sull'isola diventa, diciamo così, di sola osservazione. E lui, Lorusso, fa fatica a accettare l'idea di essere costretto a stare fuori dall'azione per almeno 4 mesi, se non per più tempo ancora, e quindi le inventa tutte per tenere alta la soglia di attenzione dei suoi, anche se è evidente che la truppa sta già dando segnali di cedimento. Dobbiamo essere osservati, cerchiamo di fare una figura dignitosa. Un minimo di grinta, cantare con un minimo di grinta, dai! Forza! Dai, anche tu! Acciugone, mi sembri un'anguilla morta! Ma cerca di tirar fuori i maroni! Ma dove ce li hai i maroni? Un minimo! Parama! Parama! Parama pa pa pa pa! Nell'estate del 41, mentre il sergente Lorusso e i suoi uomini sono abbandonati a loro stessi sull'isola di Megisti, gli Stati Uniti stanno valutando l'intervento in quella che da guerra lampo in realtà si sta trasformando in uno dei più grandi drammi della storia dell'umanità. Quante guerre sono durate più a lungo di quello che si pensava. Lì, dalle altre parti, si combatte per davvero. Lorusso lì spinge i suoi a mantenere il rigore, la disciplina, come se si trovassero al centro della battaglia. Ma Megisti, giorno dopo giorno, assomiglia a un'isola deserta, abbandonata da tutti, dagli uomini, dalle divinità. I giorni trascorrono stancamente, tutti uguali. E se all'inizio, per timore di possibili nemici, i soldati mantengono vigile l'attenzione, girando per il villaggio armati e organizzando con scrupolo i turni di guardia, a poco, nonostante i tentativi di Lorusso di tenere vivo lo spirito militare, gli otto si disperdono per l'isola, abbandonando le armi e la missione. Questa era la descrizione di quel momento fatta da uno scrittore, Luca Malavasi. Quindi siamo rimasti con i soldati che capiscono di essere arrivati su un'isola dove il loro apporto alla guerra è pari a zero. Insomma, piano piano dismettono i panni dei soldati, si calano in questa nuova realtà e ognuno si cerca un passatempo. C'è il tenente Montini che si dedica al disegno, c'è Farina che legge le poesie degli antichi greci. Solo lui, solo lo russo, sembra credere ancora in questa missione. Poi però arriva un evento che sconvolge la loro presenza sull'isola, perché a un certo punto, come d'incanto, appaiono loro, le donne e i bambini. Sono tanti, sono gli unici rimasti sull'isola, escono alla luce del sole perché hanno capito che i soldati italiani non sono pericolosi. Italiani, brava gente, diceva qualcun altro. All'inizio si erano nascosti perché li avevano scambiati per tedeschi. I tedeschi erano di altra pasta, erano già stati sull'isola, avevano distrutto tutto, avevano deportato tutti gli uomini. Gli italiani non sono così. La comparsa degli abitanti dell'isola è una buona notizia. C'è qualcosa di ecumenico in tutto questo e tutti la prendono bene, tranne che lui, lo russo, che rimane l'unico, magari senza neanche molta convinzione, a voler portare a termine la missione. Voglio assolutamente, no, che ci siano rapporti, aia, con i locali. Aspetto. Il primo che becco che tocca una donna, una gallina, un pollo, mi dice la cosa basilare, è chiaro? Siamo veloci, dacci, che è qua? Che è qua? Dacci una mossa. Perché urli sempre, sergente lo russo? Dai una mano piuttosto. Urli, il sergente lo russo urla quando gli pare lui, perché da che mondo è mondo il sergente è una persona che urla, è chiaro? È chiaro? Chuck si vola. Mediterraneo. Stiamo raccontando le gesta di questa strana pattuglia di soldati italiani ormai in disarmo che nell'estate del 41 si trovano sulla piccola isola di Megisti. Devono portare a termine una missione di osservazione e di collegamento. Chi li comanda è il sergente Nicola Lo Russo, protagonista della nostra puntata. Lui è stato in Nord Africa, in Spagna, in qualche modo ha i titoli per poter comandare questo manipolo. È l'unico che cerca di mantenere alto il morale anche quando tutti rimangono isolati dal resto del mondo, anche quando dopo la rottura della radio di campo la missione diventa semplicemente uno strano soggiorno. E lui soffre, il sergente Lo Russo, perché non vuole stare sull'isola, vuole stare al centro dell'azione. Ma invece a me mette ansia qua l'isola, questa qui c'è un silenzio, ma non è un silenzio, uno dice adesso voglio stare inseguito, anche se non vuoi c'è silenzio per forza, sei tagliato fuori, è l'isola, è così, siamo qua. Qui siamo tagliati fuori dall'umanità, ragazzi, qui i nostri stanno facendoli un culo così, i russi, ragazzi. Sono già a Mosca con la vodka, con le donne, con il caviale, noi siamo qua. Voglio dire, ma è meglio essere qua o in mezzo alla battaglia? Proprio nel mezzo. Devo stare ai margini della battaglia, anche un compromesso. O se stai nella battaglia ci stai, non puoi stare di fianco alla battaglia, cos'è? Allora, detto, va. Sergente, cosa c'è? Buonanotte. Va a cagare, va. E poi a spegnere definitivamente questi sogni di eroismo arriva una donna, Cherche la Femme, si chiama Vassilissa, è molto bella e si offre, diciamo, per alleviare l'umore dei soldati, un po' la bocca di rosa dell'isola greca. Lui si mostra l'ultimo baluardo delle regole e poi in realtà è il primo che lascia cadere questo muro di gerarchie. Buongiorno. Sei tu capitano? Sì, sono io. Ego Vassilissa. Vassilissa. Vassilissa? Sì. Bellissimo nome. Io sono Lo Russo, Nicola. Come si chiama? Lavoro. Lavoro. A lavoro? Volere parlare per lavoro. E che lavoro fare? Io sono puta. Puta che in greco... Una puttana. Per piacere! Sì, bravo. Puttana, sì. Bravo, bravo. No, dicevo, per piacere, c'è modo e modo di dire, il concetto resta quello. Può interessare? Io devo dare un'occhiatina al regolamento, perché sa, noi siamo molto, molto... Però può interessare. Va bene. E dove, diciamo così, professare? Cioè, dove si esibisce... nelle sue manifestazioni. La casa. Mia casa. Sua casa. Casa Azzurra. Azzurra. Insomma, la Casa Azzurra di Vasilissa diventa uno dei luoghi più frequentati da Lorusso e dai suoi compagni, che ormai si sono calati completamente nella vita quotidiana di megisti, tra donne, vecchi e bambini che li hanno ormai adottati, li hanno accolti con simpatia. La guerra è altrove, prosegue, ma ormai al sergente e ai suoi uomini la cosa non importa quasi più. Nel mondo stanno cambiando gli equilibri, le alleanze, i rapporti di forza, i soldati stanno perdendo completamente la cognizione del tempo, perché a megisti non succede mai nulla, le giornate scorrono uguali e in fondo si sono ambientati, e anche Lorusso su quell'isola ci sta molto bene. E ormai questo soggiorno è diventato una vacanza, anche perché nel frattempo è arrivato Aziz, è un turco che ha una barca carica di hashish e offre una serata di svago ai commilitoni, e Lorusso scopre l'hashish e in tutto quel fumo, insomma, si lascia andare a pensieri forse fin troppo lucidi sulla situazione in cui lui e i suoi commilitoni si sono trovati. Secondo me, ragazzi, questa roba qua in Italia, se ci fosse in questo periodo, non sarebbe permessa. Perché? Come, perché? Col fascismo tutte le cose buone sono proibite. Secondo te il predatore la rende lecita questa? Per gente lo russo! Gli ordini! Allora niente turni di guardia effettivi, Savoia, diavolo, porca! Non sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento lassista e rilassato che si è diffuso fra voi. Essendo un compagno non posso non andare con la corrente, cioè non posso schierarmi contro il volere della maggioranza, diciamo. Capisco anche il vostro atteggiamento di ribellione nei confronti delle autorità dovuto a una assoluta latitanza dello Stato. Ma che cazzo stai dicendo, Russo? Ma stai dicendo? Sto dicendo quello che sto dicendo. Io mi sento anch'io abbandonato dalla mia patria, dall'Italia, e non me ne frega un cazzo. Ci hanno lasciati qua e noi qua ci stiamo. Ci hanno detto arrangiatevi e noi ci arrangiamo. In questo paradiso artificiale baudelaireano, Lorusso trova la lucidità per capire che un uomo abbandonato a se stesso da un paese che forse non ha mai creduto in lui accetta questa sua dimensione di uomo esiliato dalla guerra, esiliato dalla vita, esiliato dal centro nevralgico del mondo, e questa condizione alla fine non gli dispiace, anzi vive questo suo esilio come una pausa prima di rimettersi in gioco, prima di tornare a inseguire il sogno di essere protagonista nel suo paese. In quel clima di eterno distacco, con lui pensa di avere capito che cosa sta cercando per davvero. La vita è troppo poco, una vita sola non mi basta. Se poi conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni, perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo, perché penso che sono solo un puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passare da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Chuck si vola. Mediterraneo. E poi le novità arrivano, arriva la doccia fredda, c'è un tenente, Gaetano La Rosa, che fa scalo sull'isola per riparare una perdita d'olio e capisce che si trova di fronte a dei ragazzi che non sanno nulla di quello che è successo. È arrivato l'8 settembre, è caduto Mussolini, gli americani sono sbarcati, il mondo è cambiato, e allora a Lorusso torna quella voglia di tornare per far rinascere l'Italia, ma non tutti sono d'accordo. Per esempio Farina vuole rimanere sull'isola. C'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero. C'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci. Te lo prometto, ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola, lo hai detto anche tu. Ti ricordi? Si sono dimenticati di noi, ecco, io voglio dimenticarmi di loro. Rifare l'Italia, cambiare il mondo, io non ci credo, non sono capace, non so. Io rimango qui. In un barile di olive, su un'isola deserta. Questa sarebbe la tua dimensione. Cavolo, io mi sento vivo per la prima volta qua, lo capisci questo? Vassilissa vuole aprire un ristorante. Lei ha bisogno di me. Attendente Antonio Farina, questa è diserzione, lo sai. Estate del 44, è ora di tornare a casa. Lo Russo e i suoi ragazzi salgono tutti su una nave inglese, tranne Farina, che si è innamorato di Vassilissa, che non vede motivi per tornare in Italia, dove tra l'altro nessuno lo sta aspettando. La guerra finisce e tutti i reduci di questa avventura amegisti ritornano alla loro vita. Strazzabosco, per esempio, torna sulle montagne, Montini ricomincia a insegnare al ginnasio. Lo Russo prova a cambiarla, quell'Italia che lui voleva cambiare, ma probabilmente non ce la fa, anche perché a un certo punto al tenente Montini arriva la notizia della morte di Vassilissa. Sono passati 40 anni da quella missione. Montini va a trovare Farina, ma quando arriva nell'isola scopre che lì c'era già anche il sergente Nicola Lo Russo. Beh, ma a questo punto abbiamo un colpo di scena, perché proprio mentre stavamo finendo di raccontare la nostra storia, abbiamo al telefono il sergente Nicola Lo Russo. Buongiorno, sergente. Buongiorno, come va? Bene, le spiace se la chiamo ancora sergente, perché per noi... siccome non mi hanno cambiato di grado, sono costretto ad essere chiamato sergente tutta la vita. Perfetto. Sergente, noi abbiamo raccontato la sua storia, la sua avventura nell'isola di Megisti. Lei cosa ricorda di quel periodo? Tutto e niente, perché poi la memoria è ingannatrice. La memoria ti fa ricordare quello che vuoi ricordare e come lo vuoi ricordare. Sì. Lei in quel periodo diceva io tornerò in Italia, cambierò tutto, l'Italia ripartirà. Non è andata esattamente così. No, diciamo che io ero il più illuso forse della mia del suo gruppo, sì. Cioè, dove ci credevo in qualche modo come gran parte degli italiani. Certo. Poi un po' alla volta le cose sono venute a galla e corso di corsi storici si è capito che c'erano tanti errori, c'erano tante cose sbagliate. Certo. Però ancora sono ripartito da là pensando che si potesse fare diventare un grande paese d'Italia. In qualche modo le cose sono andate bene, insomma, c'è stato un periodo in cui erano rimasti la parte buona dei valori, però cominciava il contagio, era rimasto anche quello che di negativo c'era stato prima, perché non tutto era come dicevo prima, come appariva. Quindi tornando c'è stata la delusione grossa delle cose che non andavano come pensavo io, e quindi questo mi ha portato un po', forse anche per un fatto di età, forse per un fatto di crescita, a pensare di tornare su questo certo. dove in fondo avevo trovato una serenità. Sì. E anche lei è stato testimone di una strana ma bella storia d'amore, perché su quella Vassilissa, no? Se la ricorda? E come me la ricordo molto bene, se la ricordano un po' tutti, certo. Ma io me la ricordo in particolare, anche perché ero stato promotore di questo evento. Poi di questa dopo, cordata, diciamo. Esatto, una bella cordata. Però diciamo che sono tanti i modi di amare le persone, e c'era chi amava in un modo, chi amava in un altro, chi è geloso, chi non è geloso. Diciamo certo. Che sono diventato scandinavo in quel periodo e quindi accettavo questa condivisione, partecipazione, sì. Anche perché non c'erano molte alternative, insomma. E poi la persona in questione era molto interessante. C'è stato quel mio vice che ha perso la testa, ma capita. Esatto, sei innamorato. Quindi, è così, l'amore è così. È cieco o ci vede bene? A seconda dei casi. L'ha visto bene lui. Certo. E l'ultima domanda, sergente, chi è oggi Nicola Lo Russo? Cosa fa? Cosa fa lei? Ma guardi, oggi ho una certa età, cerco di fare un po' di movimento, gioco ancora a pallone ogni tanto. Certo. Faccio fatica, ogni volta c'è qualche controindicazione perché i tempi fra una partita e l'altra aumentano sempre di più, quindi insomma, però si cerca di stare al passo. Devo dire che l'aria che tira non mi piace. Io sono ritornato in Italia, ma probabilmente tornerei molto volentieri là, perché c'è una rietta che non capisco, non mi piace. Amegisti. Insomma, sembra un po' un'aria che ho già sentito, quindi insomma speriamo che le cose non vadano per il meglio, che si traggano le cose positive dalle esperienze fatte in passato. Insomma, la gente si deve ricordare, deve imparare a ragionare con la sua testa, i ragazzi devono imparare a sapere quello che è successo. Che mi sconvolge in questo periodo storico è vedere attorno a me tanti giovani di grande qualità, ma che la pecca maggiore che hanno è che non conoscono la storia, non si interessano. Certo, io certo. Mi ricordo quando noi eravamo ragazzi che facevamo, che partivamo per questa avventura, che era nefasta come la guerra, ma insomma, però dello stare assieme, c'erano i racconti dei padri, i racconti dei nonni, c'era anche nel dopoguerra, cioè io mi ricordo che ascoltavo le canzoni che non facevano parte del mio periodo, le conoscevo, insomma, c'era un'informazione che faceva sì che si potesse parlare con qualcuno che aveva un'altra età, ma capendosi. Invece adesso c'è una disinformazione che mi fa un po' paura. Sergente, è stato gentilissimo, un consiglio prima di entrare all'isola, si svaghi, c'è in giro un film che si chiama Compromessi Sposi. Volevo chiederglielo io, un film, se lo vado a vedere. C'è un attore, c'è un napoletano, sì, Salemme, sì, ma mi piace molto. Ce n'è anche un altro, a Battantua, non so se l'ha mai sentito, sì, è un ragazzo più violenza, giovane. Violenza, più giovane di lei. Che giocava a pallone anche in una squadra che parecchie volte ha giocato contro la squadra dove giocava lei e vi ha sempre battuto. A me non risulta questo. A lei risulta. Vedi come e vede come la storia, come cambia l'informazione. Ognuno si ricorda un po'. Esatto. Comunque la ringrazio. Comunque io le sottolineo, adesso sinceramente. Magari, non so, ci andiamo assieme a vedere quel film lì, perché è un film leggero. Ma molto divertente. Va bene. Perché quella coppiata lì non è male. Non è male. Il napoletano è veramente forte. D'accordo, la ringrazio, sergente. Si chiama Compromessi Sposi, se non sbaglio. Sì, gliel'ho detto io, Compromessi Sposi. Ha buona memoria lei. Mi faccio capire che sono della generazione che si ricorda. Bravissimo. Bravissimo. Arrivederci, sergente. Mi chiami quando vuoi, io sono sempre qui. D'accordo. Arrivederci. E dalle parole di Nicola Lo Russo, che ringraziamo, insomma, si capisce quanto sia difficile ricostruire un paese. Noi ci stiamo provando ancora adesso. In bocca al lupo all'Italia e a tutti noi. Ciao, a domani. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.